Intesa San Paolo, Official Global Banking Partner di Expo Milano 2015. Vi presenta. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Markets are still pretty much separated from world markets. They're obviously moving towards being more integrated, but right now they're not. So you're not going to, I don't think, see the direct linkage there. Jack Lew, il segretario al tesoro americano, ieri ha preso posizione a favore della Grecia. Ci vuole una ristrutturazione del debito. L'America è uscita allo scoperto dopo molte dichiarazioni ambigue. Si è detto che ci vuole una ristrutturazione, bisogna evitare che la Grecia esca dall'euro. Questo è un attacco violento alla Germania in particolare, che è tradizionale antagonista ideologico degli Stati Uniti sul piano economico, perché gli Stati Uniti premono per espansione fiscale e monetaria, la Germania per l'austerità. Però l'America qui dice che ciascuno deve assumersi le sue responsabilità, ristrutturare il debito greco ed evitare che si compia un colossale errore geopolitico. Queste le parole di Jack Lew. L'amministrazione americana si muove in tandem con il Fondo Monetario Internazionale, si sta dibattendo in questi giorni in Europa. Vediamo l'effetto che questa protesta o incoraggiamento, a seconda dei punti di vista, americano avrà su questi negoziati. Ma oggi vorrei parlarvi soprattutto di un fatto di cronaca che ha dominato il dibattito americano ieri. Ore 6:45 del mattino, le 12:45 in Italia, la United Airlines annuncia che il suo sistema informatico è down, è fermo, è bloccato e di conseguenza tutti i suoi voli sono bloccati. È un problema che è durato varie ore, ha gettato nel caos decine di migliaia di passeggeri, aeroporti. Alla fine 4.900 voli hanno subito disagi, alcuni sono stati cancellati, altri sono partiti con enorme ritardo. Immaginate lo stato dei passeggeri. Poi, poche ore dopo, è la volta del New York Stock Exchange. Sentiamo. Welcome back. While we were in commercial break, traders here at the NYSE, in really one moment, just said whoa as a group and started running to various parts of their posts. You can see these screens that are on the posts all around the floor now saying no quotation for just about every stock that we can see from post 9 where we are. Di nuovo un problema tecnico interno, come ha detto un portavoce del New York Stock Exchange, ma un problema tecnico interno che riguardava il funzionamento dei computer e che ha sospeso per 4 ore il trading di titoli quotati in borsa. La capitalizzazione complessiva dei titoli quotati a Wall Street è di 28 mila miliardi di dollari paralizzati per via di un computer che non funziona. Subito dopo, una mezz'ora dopo, è la volta del Wall Street Journal. They said there will be additional information on this. It will follow as soon as possible. Of course, any breaking news on this we will bring to you. Ecco, proprio mentre la borsa di New York chiudeva, il Wall Street Journal, che poi è soprattutto il sito del Wall Street Journal, che è il più seguito per coloro che operano nel mondo degli affari, si è bloccato a sua volta, oscurato. Sullo schermo si leggeva: ups, 504, qualcosa non ha risposto in fretta abbastanza, è tutto quel che sappiamo. Per i successivi 45 minuti, come vi ho detto, il sito era oscurato, gli editori del Wall Street Journal temevano che potesse esserci infiltrazioni di notizie messe magari da qualcuno dall'esterno. Alla fine la conclusione è stata che ciascuno di questi guasti è avvenuto per una sua dinamica interna, non c'è stato un vero e proprio collegamento. Possibile? È stato soltanto un crash di sistema informatico? Come vi ho detto, le autorità ci hanno rassicurato, anche l'FBI, 4.000 voli a terra della United, le contrattazioni bloccate a Wall Street, il sito del Wall Street Journal oscurato non dipendono da un attacco simultaneo di hacking nella mattinata di ieri, ma da semplici conseguenze del caso. La casualità sarà, devo dire, possibile. Possibile, tutto è possibile ovviamente, però devo dire che anche se questo è il caso c'è poco da stare allegri, perché ieri abbiamo avuto un assaggio di quello che potrebbe capitare a tutti noi e alle nostre economie industrializzate, che sono dipendenti e ostaggio allo stesso tempo di sistemi informatici e di cui conosciamo fin troppo bene la vulnerabilità. La verità è che già ieri per alcune ore in America c'è stato un piccolo contagio da panico e lo abbiamo visto in televisione, passeggeri disperati per la cancellazione simultanea di voli, aeroporti nel caos, investitori che non potevano dare seguito alle loro operazioni, gli editori del Wall Street Journal appunto che temevano infiltrazioni sul loro sito. E allora? Beh, il punto direi è un altro. Chiediamoci che cosa sarebbe successo se ci fosse stato davvero un attacco congiunto di hackers di potenze straniere a tutte le linee aeree americane, alle centrali elettriche americane, ai mercati in generale, non soltanto al New York Stock Exchange, perché poi su mercati secondari alcune contrattazioni andavano avanti lo stesso, alle ferrovie. Insomma, potenzialmente siamo sempre esposti e vulnerabili a una possibile catastrofe, perché se si bloccano le centrali elettriche, beh, la conseguenza è una catastrofe. È vero che noi dipendiamo da internet, ma internet dipende dall'elettricità. E negli scenari di coloro che cercano di proteggere il paese da possibili attacchi c'è sicuramente quello di un attacco alle centrali elettriche. E sono cose possibili, perché sappiamo che potenze straniere si sono attrezzate per poter colpire il tallone d'Achille delle nostre economie, la struttura informatica, appunto. Pensiamolo come un vero e proprio sistema nervoso che tiene insieme il mondo globale. E per cui, come dire, se alla Corea del Nord è riuscito il colpo di mettere in ginocchio la Sony Corporation infiltrando il sistema dei mail per vendicarsi di un film che ironizzava sul leader supremo Kim Jong-un, beh, immaginiamo cosa possono fare gli altri, cosa può fare la Cina, cosa può fare la Russia. Questo è solo per citare esempi recenti. Per esempio, sappiamo che la Cina è dietro un attacco che ha colpito a metà giugno l'ufficio del personale che controlla le informazioni di tutte le agenzie federali americane, con l'eccezione della CIA, e sono stati due attacchi separati che hanno portato a un furto di 18 milioni di dati. E poco prima, l'8 giugno, imbarazzo non da poco per il Pentagono, il sito internet dell'esercito americano www.army.mil, per chi fosse interessato, è stato attaccato da un gruppo di hacker ed è rimasto bloccato per alcune ore. Da chi? Dal Syrian Electronic Army, cioè un gruppo di pirati informatici vicini al regime del presidente siriano Bashar al-Assad. E così via, ce ne sono stati molti altri, l'ISIS, anzi il Cyber Caliphate, ha attaccato il Twitter, il comando militare americano in Medio Oriente, ha messo su Twitter i nomi di alcuni militari importanti con i loro indirizzi, le loro famiglie, così via, così via. C'è stata una rapina informatica in banca a febbraio, anzi 37 colpi in banche americane, 178 contro banche russe, bottino $1 miliardo. Insomma, si potrebbe continuare e voi potrete dire, ma insomma d'accordo, ma quelli di ieri non sono stati attacchi informatici dei semplici guasti. Vero, non lo sono ovviamente fino a prova contraria, però anche se alla fine non c'è stato un attacco di hackers, conferma quello che è successo ieri la nostra vulnerabilità, conferma la necessità di dare corpo a un programma multilaterale per rendere davvero inviolabili certi sistemi chiave. Il percorso è obbligato per ogni capitale di paesi industrializzati e non, altrimenti gli incidenti di ieri sembreranno nulla, questo ve lo garantisco, davanti al rischio possibile a cui le nostre comunità sono esposte. Quello di essere eliminate, virtualmente parlando naturalmente, dalla faccia della Terra. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, abbiamo parlato di sistemi informatici, di quanto siamo esposti al rischio di una paralisi di questi sistemi informatici. Dunque vi propongo una canzone di grande visione, perché era del 1986 di Neil Young, Computer Age, che preannunciava l'era della nostra dipendenza totale dai computer. Neil Young, Computer Age.